Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è dedicata a un incontro con Enzo Restagno. Ricordo che è critico, storico della musica e direttore artistico di Mito, cioè Milano, Torino, Settembre Musica, ma è anche autore di numerosi libri su compositori del Novecento come Nono, Berio, Reich, Ligeti, Heinze, e poi ha scritto un libro veramente bello su Ravel, Ravel e l'anima delle cose, del 2009, e appunto ne abbiamo avuto occasione di parlare. In questi giorni esce, diciamo è uscito da forse una settimana, due settimane, Schoenberg e Stravinsky, storia di un'impossibile amicizia. Schoenberg e Stravinsky si incontrarono forse una sola volta, chissà perché la loro amicizia era impossibile, ma di questo parleremo con Enzo Restagno, che ovviamente ci condurrà. Ricordo che è un librone, perché sono oltre 400 pagine, costa 25 euro, pubblicato appunto dal Saggiatore. Buonasera Enzo Restagno. Buonasera, buonasera Torno. Ecco, mi pare che ho detto un po' le cose essenziali, e adesso questo librone, che mi sa che è il lavoro di un'altra parte della sua vita. Ma sì, è una parte della mia vita, nel senso che a scrivere il libro materialmente ho impiegato qualche anno, ma il libro porta con sé, innanzitutto, mi scusi se la correggo, non è per pignoleria, ma per rassicurare i lettori, il libro è un po' meno di quello che ha detto lei, sfiora insomma le 450 pagine. Io ho detto, 500, più, di, io ho detto più di 400, ho detto. Forse allora ho inteso male, mi sembrava che avessi detto 500, dopo che sono 450 pagine, sì, con gli indici, eccetera, eccetera, quindi non è proprio terribile, insomma. No, assolutamente, no, anzi è piacevolissimo da leggersi, sì, poi. Ma, grazie, questo è quello che speravo, appunto, perché poi qualche volta è comunicare. Le dicevo che sì, è vero, la stesura del libro materialmente è impiegato qualche anno a scriverlo, eccetera, perché è lungo abbastanza, insomma, è complesso, ma in realtà sì, è un po' il libro, anche qui è un po' un libro della vita, nel senso che io prima di tutto non sono più molto giovane, e poi mi ricorda soprattutto la parte che si riferisce a Schoenberg, eccetera, mi ricorda gli anni della mia gioventù, quando io studiavo all'Università di Vienna, tanti anni fa, non lo so neanche dire quanti, ma comunque mi familiarizzai per la prima volta con quell'ambiente. Tutti i giorni io andavo al Musikverein a sentire i concerti, prendevo un ingresso per pochi scellini, andavo all'opera, eccetera, e poi andavo in giro per queste strade del centro, dentro il Ring, con queste architetture così speciali, delle quali il valore, l'importanza o comunque l'atmosfera mi si sarebbe chiarita soltanto anni dopo attraverso gli studi, ma ricordo sempre con piacere questa esperienza straordinaria, cioè di essere immerso in un ambiente, in un contesto del quale intuisci vagamente, insomma, la portata, è come se vedessi delle ombre, ecco, che poi lo studio in qualche modo ti permette di definire meglio, eccetera. Questa è stata un pochino, ecco, la storia della passione che mi ha accompagnato e che ancora mi accompagna. Tutte le volte che vado a Vienna riprovo queste sensazioni, anche se ormai è diventata una città molto turistica, insomma, sì, forse sì, anche troppo, eccetera, però conoscendo bene i punti giusti uno si sa infilare in certe prospettive dove appunto ritrova quelle ombre che ormai sono diventate molto più eloquenti. Ecco, lei nel libro ricorda che Schoenberg e Stravinsky, che tra l'altro rappresentano forse come pochi altri la musica del Novecento, si incontrarono una sola volta. E tra l'altro è vero, è verissimo, è proprio la verità, cioè per incontrarsi, intendo dire, incontrarsi, fermarsi, certo, parlare, eccetera, eccetera, e questo accadde un'unica volta nel 1912 a Berlino, in occasione della rappresentazione alla Kroll Oper, teatro che non esiste più da molti anni, ma gloriosissimo all'epoca, in cui si dava Petrushka. E naturalmente Diaghilev, che era un grandissimo anche uomo di public relation, aveva fatto le cose alla grande, aveva invitato tutti gli artisti eccetera, tra questi aveva invitato anche Schoenberg, e così i due si incontrarono, si conobbero di persona, sapevano già chi erano l'uno dell'altro reciprocamente, ma iniziarono a chiacchierare, cosa che fra l'altro io ho sottolineato. E chi ha conosciuto Stravinsky, c'è ancora tanta gente che l'ha conosciuto, insomma, lo sa, Stravinsky parlava un tedesco perfetto, perché aveva avuto fino proprio dagli anni, quando aveva 2 anni, una balia che era della Prussia orientale, e quindi per lui era come una seconda lingua madre. Questo facilitò i contatti in sostanza con Schoenberg. Poi non si sono visti mai più, è vero, c'è stata la guerra per lo mezzo, e quindi Stravinsky è diventato un esule, ha dovuto lasciare la Russia e trasferirsi in Svizzera, poi a Parigi, eccetera, quindi questo rappresenta un trauma nella vita. Ma poi un po' alla volta hanno preso strade diverse con la loro musica, insomma, e quindi quelli che sembravano i presupposti per una buona amicizia via via si sono raffreddati fino a trasformarsi in un certo senso, non dico in una rivalità, ma in una netta opposizione o divaricazione proprio di tendenze. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Enzo Restagno, autore di un libro, Schoenberg e Stravinsky, uscito da pochi giorni da Il Saggiatore, Storia di un'impossibile amicizia, un libro di oltre 400 pagine, costa 25 euro. Ricordo che Restagno non soltanto è critico e storico della musica, non soltanto è direttore artistico di Mito, Milano, Torino, Settembre Musica, è autore di numerosi libri su compositori del Novecento, da Nono a Berio, a Ligeti, a molti altri. E poi io lo ricordo sempre perché ne parlammo proprio qua alla radio del libro su Ravel, pubblicato dal Saggiatore nel 2009. E ora questo Schoenberg e Stravinsky. Restagno, che cosa succede un po' in questo impossibile incontro, in questa impossibile amicizia? Qual è un po', se lei volesse riassumere in poche battute questo suo libro, è una storia, è un grande capitolo di storia della musica, è uno scandalo, è un mancato incontro, è una mancata, che so io, solidarietà, che cos'è? Ma è naturalmente complesso tutto questo, ma vede, io ho scritto questo libro che, come ha ricordato lei, ha una certa estensione, una certa ampiezza, perché prima di tutto molto attratto dall'idea delle vite parallele, in sostanza. Sono i due più grandi compositori del Novecento, quelli che in un certo senso ci hanno insegnato a vedere, ad ascoltare la musica così come ancora facciamo oggi. Però nella loro vita si sono incontrati una volta sola, sembrava che potesse essere un'amicizia, perché quando si sono incontrati si trattava di ascoltare e vedere Petrushka con Nijinsky eccetera, e Schoenberg fu entusiasta di Petrushka. Questa partitura la trovo bellissima ed ebbe occasione di scriverlo anche varie volte nei suoi diari di qua e di là, che Petrushka gli piaceva veramente tanto. Quindi sembrava che ci fossero tutti i presupposti, perché poi in quei giorni di Berlino del 1912, conosciutisi lì in sala, in teatro, Schoenberg chiese al collega, dice: ma se lei si ferma qualche giorno ancora, guardi, dopodomani c'è una replica di un mio nuovo lavoro che si chiama Pierrot Lunaire, mi farebbe molto piacere che lei venisse. Stravinsky disse: ma senz'altro, con piacere. Sappiamo che ci andò, ascoltò e fu rapito addirittura da questo Pierrot Lunaire, del quale poi tante volte ebbe occasione di dichiarare, ritorna sempre nelle conversazioni con Robert Kraft, la sua enorme ammirazione per questa partitura che arrivò a definire il plesso solare della musica del Novecento. Quindi i presupposti c'erano tutti, grandissima stima da una parte e dall'altra, dicevo perfino confidenza, facilità di comunicazione, perché Stravinsky parlava un tedesco eccellente, e quindi ci si chiede perché questa amicizia sia venuta meno. Beh, la ragione è abbastanza semplice da un certo punto di vista, cioè ci sono stati dei buoni rapporti, non si sono più incontrati, ma perché c'è stata la guerra, eccetera, eccetera, e dopo, negli anni dell'immediato dopoguerra, ancora Schoenberg, nei concerti che organizzava a Vienna per questa famosa associazione delle esecuzioni musicali private, mise in programma alcuni lavori di Stravinsky, suscitando fra l'altro un enorme entusiasmo nel giovanissimo Anton Webern. Poi però siamo arrivati al 19, al 20, e lì a un certo punto le due strade cominciano a divaricarsi, ma in maniera sempre più forte, perché finché si trattava, diciamo così, di Petrushka, di queste cose, potevano andare bene. Ma quando dall'altra parte la musica di Schoenberg prende un indirizzo che va lentamente verso l'organizzazione seriale dodecafonica, e Stravinsky invece prende un'altra strada, cioè dopo i grandi successi dei balletti, diciamo così, russi, parigini, punta invece su quello che è il ritorno al passato inteso come neoclassicismo, e beh, allora evidentemente il cammino dei due compositori si divarica, ma si divarica anche polemicamente, tant'è vero che c'è una data tipica che è Venezia nel 1925, c'era uno dei festival della SIMC, una sigla che voleva dire Société Internationale de Musique Contemporaine, e dove i due erano entrambi invitati, e Schoenberg seguì la sua serenata opera 24, che reca già significativamente i prodromi della tecnica seriale, anche se non è ancora sviluppata proprio al 100%, però e l'altro invece presenta una sonata per pianoforte che è di classico sapore neoclassico, poi in quell'anno scrive la serenata di cui si chiacchierava prima, che è proprio un palese omaggio al XVIII secolo. Insomma, in sostanza Stravinsky andrà avanti per questa sua strada, raccogliendo dei risultati straordinari, facendo una grande carriera, e quindi era fatale che si allontanassero. Però vorrei dire, questa opposizione, per quanto radicale, in realtà, di questo sono intimamente persuaso perché ho indagato a fondo i documenti, non ha mai cancellato del tutto la stima reciproca. Ecco. Nel caso poi di Stravinsky, le dichiarazioni di stima nei confronti di Schoenberg e dei suoi allievi, di Berg, di Webern, abbondano, insomma, non trascurò occasione per dirlo chiaramente. E poi, come sempre accade, quando c'è una rivalità tra due grandi personaggi, la storia della musica è ricca di queste cose, insomma, pensate alle rivalità, per esempio, non so, tra Brahms e Bruckner, per rimanere in ambiente viennese. Questi due musicisti facevano certo una musica abbastanza diversa, ma erano in realtà, senza che loro lo volessero, erano diventati i capifila di due fazioni, costruite da chi? Dagli amici, dagli interpreti, dagli esegeti. Sono loro che hanno in realtà, direi, creato, scavato un fossato profondissimo tra i compositori, come, non so, in tempi più lontani, il nostro Verdi e Wagner, e certo. C'era una grande stima reciproca. Lei ovviamente, che ha collocato tutta una serie di date, ha teso agguati ai suoi personaggi per poterli cogliere in un possibile momento d'incontro, che cosa ci può dire? Ma è un momento curioso, diciamo pure tragico, ma è una curiosa coincidenza, perché in fondo io ho cercato di costruire questo libro, come lei ricordava prima, i nostri due eroi si sono incontrati davvero una volta sola, poi si sono sfiorati tante volte e non si sa se per caso oppure per volontà non si sono avvicinati al punto da parlarsi, da salutarsi, da stringersi la mano, eccetera, eccetera. Il caso che dice lei adesso è straordinario, perché lì si tratta di un'esecuzione che avviene a Parigi. Ebbene, siamo nel 1933, Il 30 gennaio del 33, scusate se ricordo questi fatti storici, Hitler vinse le elezioni, diventò cancelliere. Naturalmente questo diede la stura al più feroce antisemitismo, eccetera. Schönberg fu più volte offeso all'Accademia di Berlino, dove prestava servizio come professore di composizione, al punto che diede le dimissioni e con la famiglia, in questo senso diciamo pure che ebbe buon fiuto, buon naso, si decise di espatriare e la prima tappa fu Parigi. Si trasferì a Parigi, dove addirittura reagì a questa situazione tragica, insomma, sbattuto fuori dal paese, privato dello stipendio, privato di altre risorse, si dà da fare come un pazzo per la questione ebraica, eccetera, eccetera. Non solo, ma prende una decisione fondamentale, decide di tornare alla religione dei suoi padri e ritorna quindi ebreo, non posso dire che si fa battezzare, ma il ritorno alla religione avviene solennemente proprio il 24 luglio alla sinagoga di Parigi. Pensate che tra i testimoni figurava anche Marc Chagall, ecco, per dirne una. Ora è un grande avvenimento, però naturalmente Stravinsky, che abitava anche lui a Parigi, non se ne curò, non si sa, non si conosce nessuna reazione, però stava a Parigi, questo lo sappiamo di sicuro. E anzi, e come ha ricordato lei, per caso proprio, quasi, un mese prima aveva eseguito questo concerto insieme a Samuel Duchkin e così via. Quindi i due erano a Parigi, ma non si incontrarono. Qualche mese più tardi, cioè nell'ottobre sempre del 33, Schönberg ancora una volta ebbe la giusta intuizione e si imbarcò per l'America con la famiglia e si trasferì definitivamente negli Stati Uniti. Non sapeva se sarebbe stato per un po' di tempo, per molto tempo, eccetera, e in realtà fu per sempre. Dagli Stati Uniti non sarebbe mai più tornato. Aggiungiamo però che Stravinsky, che se ne stava tranquillamente a Parigi, eccetera, siamo nel 33, insomma, non ci sarebbe rimasto neanche lui per molto tempo, perché poi nel 39, poco prima che scoppiasse la guerra, partì per una delle tournée che lui ogni anno usava fare, praticamente per guadagnare anche molto denaro, intendiamoci. Certo. Tutti gli anni partiva, si faceva di solito una tournée negli Stati Uniti che poi si traduceva in qualche cosa di molto lucroso, insomma era diventato anche un direttore d'orchestra, aveva preso l'abitudine di dirigere lui le sue opere con le grandi orchestre americane tipo Chicago, Boston, New York e così via. E quindi anche lì andò a Los Angeles più volte, dove Schönberg si era trasferito con la famiglia, ma non risulta che si siano incontrati. E non potevano non sapere che l'altro era in città, perché per esempio il Los Angeles Times metteva in evidenza il fatto che il grande Igor Stravinsky avrebbe diretto quella sera l'orchestra di Los Angeles nel concerto, eccetera, eccetera, e tuttavia non ci furono incontri. Nel 39 però poi il destino costrinse Stravinsky a rimanere in America. Era partito con una tournée in Europa, scoppia la guerra e allora a quel punto decide che è meglio rimanere in questo paese, che tutto sommato fu, direi, molto generoso e ospitale nei confronti di entrambi. Intendiamoci, io ho parlato di generosità o di ospitalità, è un tema, quello dell'emigrazione intellettuale, sul quale è stato anche scritto molto, ma forse è il caso di ripeterlo e di ricordarlo una volta di più a coloro che ci ascoltano. Non si tratta soltanto di Stravinsky e di Schönberg, che pure sono due grandissimi compositori, altri compositori anch'essi importanti si trasferirono negli Stati Uniti, soprattutto quelli poi che avevano una matrice ebraica, insomma, ma anche altri che erano, come dire, contrari per ragioni ideologiche, fuggivano dal nazismo, dall'Italia fascista, eccetera. Cioè l'America aprì le braccia a tutti gli intellettuali e diciamo pure anche agli scienziati, eccetera, che perseguitati o comunque in contrasto con i regimi totalitari, fascisti e nazisti, decisero di andare in America e fecero un buon affare, diciamolo pure, insomma. E quindi c'è una lungimiranza in questo senso, non solo, ma questa lungimiranza che voleva dire accogliere nelle proprie accademie, università, istituti di ricerca, molte volte il meglio di quello che la cultura europea aveva prodotto, veniva anche poi reclamizzato molto bene per dare nel mondo, soprattutto poi quando scoppiò la guerra, eccetera, l'idea della ospitalità. L'America era il paese della libertà. Chi ha una certa età, come sottoscritto per esempio, ricorda benissimo queste cose negli anni dell'immediato dopoguerra, insomma, quando qui in Europa, anche in Italia, insomma, gli Stati Uniti venivano presentati come il paese dell'assoluta libertà, il paese dove tutti venivano accolti a braccia aperte e così via. Non dimentichiamo che proprio i viennesi in particolare, e quindi il nostro Schönberg è una parte proprio di questa emigrazione eletta, negli Stati Uniti di allora, per esempio, sono quelli che hanno fatto nascere Hollywood, il grande cinema, insomma, da Max Reinhardt fino avanti, eccetera, abbiamo questa fioritura straordinaria di una cultura, di una civiltà, di un'arte che si nutrono di questi succhi importati dall'Europa. E quindi il nostro Schönberg e il nostro Stravinsky hanno fatto magnificamente la loro parte negli Stati Uniti, a partire appunto dalla fine degli anni 30 in avanti. Ma insomma, Restagno, ci può spiegare un po' queste cose? Picasso, la cricca ebraica, chi erano costoro? Sì, perché vede, innanzitutto il rapporto con Picasso è una cosa che è stata creata da Diaghilev, se vogliamo, perché è la trovata di commissionare a Picasso le scenografie per qualcuno dei balletti la cui musica era stata scritta da Stravinsky, e quindi dovere fare delle scenografie per dei balletti come il Pulcinella, dal quale abbiamo ascoltato prima delle riduzioni e altre cose ancora, fu molto significativo per Picasso, perché lo indusse in qualche modo a retrocedere un po', diciamo, dall'epoca cubista e riaccostarsi significativamente al mondo della figurazione. E qui naturalmente gli influssi sono reciproci, insomma, due personalità così si intendevano molto bene, erano fatti proprio per capirsi, e gli influssi dell'uno e dell'altro, dell'uno sull'altro, sono notevoli. Direi che corrisponde però un uguale fertilissimo rapporto tra musica e pittura anche nel caso di Schönberg. Schönberg ebbe un'amicizia straordinaria con Stravinsky, con Kandinsky, e che è testimoniata da un epistolario pubblicato anche in lingua italiana da molti anni, che resta secondo me uno degli epistolari più straordinari proprio della cultura del Novecento. Quindi questo influsso tra le arti figurative, la pittura e la musica, è di grandissima importanza ed avviene attraverso i quattro artisti, le due coppie di artisti che ho nominato. E la cricca ebraica, io l'ho chiamata così riprendendo il termine spregiativo che venne usato polemicamente da taluni critici viennesi nei confronti di Schönberg. Schönberg era ebreo di nascita, era figlio di genitori ebrei, il padre era un ebreo di Bratislava, la madre era un'ebrea praghese di stretta osservanza, lui invece, per cosa che si faceva molto a Vienna a quell'epoca, si era fatto battezzare, per quando, soprattutto in vista del matrimonio, anche lo stesso Gustav Mahler si era fatto battezzare a suo tempo, quindi era una cosa che si usava abbastanza, però questo non significava niente, perché l'ebreo battezzato per gli antisemiti, anzi, era ancora peggio, era una specie di, non so, di mimetismo, di trance, certo, di atto di vigliaccheria, eccetera eccetera, per cui tutte le volte che eseguivano un concerto pubblico di musiche sue, capitava quasi sempre che qualche critico, anche decisamente antisemita, lo attaccasse dicendo che questa musica veniva eseguita perché c'era sotto qualche intrigo della solita cricca ebraica. Ecco, e allora a questa piccola cricca ebraica io ho voluto rendere omaggio, perché c'erano delle persone straordinarie. La cricca ebraica voleva dire, per esempio, un drammaturgo e scrittore come Arthur Schnitzler, voleva dire Theodor Herzl, che è l'autore, diciamo così, della soluzione ebraica, eccetera, e che poi si realizzerà nello Stato di Israele. Voleva dire alcune delle intelligenze più belle, più vivaci, naturalmente quella di Gustav Mahler, che era morto da poco. Voleva dire uno scrittore come Franz Werfel, un po' più lontano Franz Kafka, e così via. cioè la quantità di grandi artisti, ma anche di professionisti illuminati che magari non c'entravano niente. Allora io ho fatto questo piccolo capitolo, un paragrafo proprio, sono andato a ricostruire, come le raccontavo all'inizio della nostra conversazione, a cercare le ombre, perché io so che la prima esecuzione della serenata opera 24 di Schoenberg, in cui trasparono per la prima volta, non ancora completi, ma degli abbozzi, diciamo, di tecnica dodecafonica, avvennero nella casa, nell'appartamento privato di un grande avvocato viennese, un avvocato che abitava in Krügerstrasse, che è una delle strade centralissime, una delle traverse della Körnerstrasse a Vienna, e sono andato a vedere questa casa, ed è ancora una di quelle vecchie case con quei portali alti e maestosi, che è tutta piena, ci sono delle targhe fuori, insomma, che fanno vedere che ci sono ancora tanti studi legali lì dentro. Beh, insomma, questo ambiente così illuminato, che rappresentava probabilmente la parte migliore della società in senso culturale, perché aveva queste aperture, non dimentichiamo un personaggio come Stefan Zweig, insomma, della Vienna di allora, anche lui naturalmente fa parte della piccola cricca ebraica, figuratevi. Una cricca di intelligenza, insomma. Una cricca di persone di questo genere, che naturalmente per la loro apertura intellettuale sostengono questo compositore, che ha delle idee così straordinarie, così innovative in sostanza, e lo sostengono a volte perfino economicamente, gli organizzano una serie di 10 concerti pubblici con la Sinfonia da Camera Opera 9, che non è ancora un'opera dodecafonica, ma è una di quelle opere che segnano una svolta proprio nella storia della musica. Sara Estagno, che ci è rimasto poco meno di un minuto, e cosa possiamo dire proprio in 20 secondi per salutare i nostri ascoltatori? Ma vorrei dire che il mio libro è un certo una storia delle vite parallele, che però si conclude prima della morte di Stravinsky, si conclude nel 1956 a Venezia, in occasione della prima mondiale del Canticum Sacrum in San Marco, nella Basilica, ed è un'opera questa parzialmente dodecafonica, cioè alla fine, dopo tanti tanti anni, i due che erano stati così lontani, anche avversari, eccetera eccetera, è come se ci fosse una parziale riconciliazione, cioè Senta. Il vecchio Stravinsky dice: beh, in fondo il mio collega aveva ragione, almeno in parte, e quindi, sia pure in maniera molto personale, con molti distinguo, eccetera eccetera, ci proporrà un'opera sacra che però è, direi, intrisa parzialmente dello spirito della musica dodecafonica e seriale. Quindi, come vede, si sono dati la mano a distanza, anche se a quell'epoca, siamo nel 1956, Schoenberg non era più di questo mondo già da 5 anni, certo. Ma il destino, quella superstizione nella quale credevano enormemente tutti e due, volle che questo concerto avvenisse proprio il giorno del 13 settembre, che era il giorno del compleanno di Schoenberg. Restagno, lei ha parlato di questo bellissimo abbraccio tra Schoenberg e Stravinsky, e noi le facciamo a nostra volta un grande abbraccio e la ringraziamo per essere stato con noi a presentare il suo Schoenberg e Stravinsky, pubblicato L'Assaggiatore. Un cordiale saluto da Armando Turno e da Enzo Restagno.